Siamo con Massimo Righetti di Mariposa Cinematografica per parlare del film Noi siamo la marea, in uscita in sala il 21 giugno. Massimo, benvenuto. Ciao Federico, ciao a tutti. Come lo racconteresti brevemente? Allora, il film, come dicevi tu, esce la prossima settimana e è un film... Diciamo che ritorniamo praticamente nella nostra linea editoriale di Mariposa cinematografica di fare film con un target tendente verso i giovani, di parlare le loro tematiche sociali. Quindi qui è una storia, diciamo, fantasy su un posto dove 15 anni prima l'oceano sparì improvvisamente e ci fu una sparizione nello stesso periodo di tanti bambini di un paesino che stava lì davanti alle coste. E 15 anni dopo un giovane fisico vorrebbe condurre studi approfonditi su questo fenomeno e decide di partire nonostante l'università non lo supporta per questo genere di studi e decide di partire a raggiungere questo posto e studiare questo fenomeno cercando di capire anche se qualora ci sia un nesso tra la marea e la sparizione dei bambini. Sì. Questo è l'inizio, diciamo, del film e poi mi fermo qui, c'è la spoiler. sì. Senti, cosa ti aveva convinto di questo film? Ma in sostanza lo vidi a Torino dove ha vinto il festival con il premio del pubblico, perché comunque da questa storia fantasy si aggancia ai temi della generazione di questi dei giovani, che appunto questa generazione a cui tutti si aspettano di essere la generazione nuova che può portare il cambiamento, che può avere successo in tanti campi, però poi dopo alla fine la società non li mette in condizione di poter perseguire tali scopi, quindi si ritrovano di fronte praticamente a una vita dove si offre un contratto a tempo determinato, una casa che può prendere solo in subaffitto, guadagnare poco e cercano di rialzarsi, però comunque la società non li aiuta. In questo film c'è questa diciamo metafora di questa generazione che cerca di trovare una strada nonostante appunto questi vincoli che la società gli impone. Sì. Di Sebastian Hilger cos'altro sappiamo? È la sua seconda opera. È nato nell'84 e dopo gli studi all'Università del Cinema di Colonia ha cominciato a farsi conoscere tramite dei cortometraggi e videoclip. Il primo film è del 2009, girato in 16 mm, quindi con la pellicola, diciamo con la vecchia pellicola, e poi si è ripresentato come seconda opera con Noi siamo la marea, che appunto è stato presentato in tanti festival e nel caso nostro ha vinto un premio importante in uno dei nostri festival forse più prestigiosi italiani, che è Torino. Che... è molto attento a questo genere di film. Sì. Che modalità d'uscita ci sarà? L'uscita è quella proprio classica nostra da cinema indipendente. Dobbiamo mettere ovviamente una data di uscita e quindi usciremo nelle grandi città con i soliti cinema nostri che seguono comunque il cinema indipendente e che lo sostengono, e poi incominciamo l'operazione di entrare in provincia, in profondità, in rassegna, in questo caso nelle arene, perché comunque è un film che potrebbe essere potrebbe attirare un buon pubblico anche per le arene, appunto, proprio perché è un film che può attirare dei giovani. Allora, ricordiamo il film Noi siamo la marea di Sebastian Hilger, dal 21 giugno al cinema, distribuito da Mariposa Cinematografica. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Righetti. Massimo, un abbraccio e alla prossima. Alla prossima. Ciao. Grazie, ciao a tutti.